E siamo con la professoressa Marcella Emiliani, esperta di Medio Oriente, fra l'altro fresca di pubblicazione di un secondo volume che si chiama Medio Oriente, una storia dal 91 a oggi, editori La Terza. In passato era uscito il primo volume che ripercorreva la storia del Medio Oriente dal 1918 appunto al 91, ma su questo libro ci arriviamo tra poco. Invece, professoressa, volevo tornare sulla, come dire, su quella che è la logica delle confessioni, delle diverse religioni in Siria e quanto questa leva in futuro può diventare esplosiva. Dobbiamo tener conto che la minoranza al potere, quella alawita, è veramente piccola, è del 10-12%, e che gli Assad dal 1970 si sono mantenuti con una politica molto calibrata di aperture e chiusure nei confronti della stragrande maggioranza sunnita. Oggi questa minoranza sciita è in rotta di collisione netta con la stragrande maggioranza sunnita, quindi è difficile immaginare che possa sopravvivere al potere in queste condizioni. Naturalmente quello che temono gli alawiti è di essere travolti da ondate di vendette, di odi che si sono accumulati nel corso degli ultimi 40 e passa anni. Ecco, da questo punto di vista la storia irachena ci insegna che la violenza poi tra i gruppi è stata in alcuni casi devastante, l'abbiamo sentito dalla scheda precedente, l'ultimo attacco, decine e decine di morte proprio alcune settimane fa. In chiusura, professoressa, l'attacco all'Iran di cui si discute, si dibatte sui giornali non solo israeliani, lei vede una possibilità reale oppure, come lo chiamo io, e questo è il tormentone destinato ad accompagnarci nei prossimi mesi? Beh, guardi, questo è un tormentone davvero, nel senso che Israele chiaramente mette in allerta tutta l'area e soprattutto la comunità internazionale, cercando di convincerla che l'Iran è il suo nemico numero uno e che è un serio pericolo per lo Stato di Israele. Quello che rende particolarmente cruciale questo periodo sono le elezioni americane. L'unico paese che può avere qualche speranza di frenare un'iniziativa di guerra contro l'Iran sono gli Stati Uniti, anche se Benjamin Netanyahu è sempre riuscito a fare la voce grossa con Obama, non è mai riuscito a smuoverlo dalle sue posizioni che erano di favorire per esempio l'incontro con i palestinesi o di adottare una tattica meno aggressiva nei confronti di Teheran. Sappiamo che nei periodi elettorali gli Stati Uniti sono congelati, immobilizzati, tutti hanno paura di commettere gli errori e Israele non è la prima volta, dovesse attaccare l'Iran, non è la prima volta che sfrutta dei periodi elettorali americani proprio per muoversi in Medio Oriente. Ecco, poi nel gioco di fioretto, la schermaglia di dichiarazioni politiche, il ministro degli esteri iraniano dice: non stiamo prendendo molto seriamente queste dichiarazioni perché capiamo che sono false e senza fondamento, in qualche modo stempera, diciamo, questo scenario. Invece, professoressa, in chiusura volevo tornare al libro appunto che citavo prima, Medio Oriente, che poi va a raccontare anche gli eventi dell'anno scorso. Quindi perché una storica racconta eventi così vicini nel tempo? Un po' una contraddizione, no? No. Nel senso che se uno è uno storico sulle cose riflette. Ora, è noto a tutti che gli archivi del Medio Oriente, quelli arabi, sono chiusi, in teoria allora non si potrebbe scrivere neanche una riga. Esistono però fonti diverse, ormai accreditate anche scientificamente, per informarsi. Quello che mi è sembrato importante in un momento così cruciale è fornire uno strumento perché la gente riuscisse a capire. Poi benissimo, fra 50 anni mi si smentisca pure, sì. Non è un problema che mi riguarda no, più. La domanda era perché insomma ci vuole anche un po' un atto di coraggio, no? Per raccontare eventi così, così caldi, così vicini. Bisogna sfidare l'Accademia, ma ogni tanto l'Accademia bisogna lasciarsela anche un po' alle spalle. E allora sfidiamo l'Accademia, professoressa, l'ultima domanda è davvero questa. Storia maestra di vita, cioè raccontare gli ultimi anni del Medio Oriente ci aiuterà a capire che cosa accadrà in Siria davvero nei prossimi mesi? Guardi, la storia potrebbe essere maestra di vita se lo si volesse, poi le ragioni contingenti, vedi caso, sono sempre la meglio.

a decine o a centinaia, si cambia proprio ordine di grandezza, è proprio l'Armageddon. Però come diavolo si può pensare che Israele, ma bisogna anche guardare un'occhiata alle cartine geografiche, calcolare le distanze, i tempi, i rifornimenti, cioè ammettiamo pure che li lasciano passare tutti, Giordania, l'Arabia Saudita, Emirati, lasciano passare tutte queste valanghe di aeroplani israeliani, poi questi si riforniscono naturalmente, ritornano indietro, magari atterrano, fanno fuori le difese iraniane come se fosse burro, certo, tutto uno scenario che va bene, secondo me, nei fantathriller alla Tom Clancy, ma non nella realtà. Guardate, i piani reali sono quelli che fa il COM statunitense, li fanno e li aggiornano continuamente, ma che Israele dall'altra parte del mondo, del Mediterraneo, parte, se ne va nel Golfo e distrugge il potenziale nucleare e missilistico, perché ovviamente vorrei mica lasciargli le basi missilistiche da dove verrebbero lanciati i missili contro Israele, devi far fuori anche quelli. Poi per entrare come fai? Devi aprirti la strada in mezzo alla difesa aerea iraniana e allora bisogna scardinare anche quella. Certo, uno scenario meraviglioso se dovessimo fare un film, ma per fortuna penso poi che il film non lo vedremo, a meno che non lo facciano altri attori, ecco. Fra l'altro, appunto, citavo questo pezzo sul Corriere di Oggi che mostra in questa piccola mappa, in questa cartina, le tre possibili rotte, no? La rotta settentrionale che passa dalla Turchia, una rotta centrale che dovrebbe attraversare Giordania e Iraq e una rotta a sud che dovrebbe attraversare l'Arabia Saudita. Qua bisogna anche poi mettere d'accordo i paesi che sorvoli, no? Ah beh, insomma, direi, cioè, guardate, questo è già stato fatto, penso di non rivelare nessun segreto dicendo che durante la seconda guerra del Golfo dalla Giordania è partito di tutto in direzione dell'Iraq, compresi tanti aerei americani. Si può fare, perché è ovvio che l'interesse di tutti i paesi del Golfo è abbattere il potenziale militare iraniano, ma va fatto con discrezione. E poi sono le quantità. Guardate che quando si parla di distruggere il potenziale iraniano, noi contiamo quelli che si chiamano aim points, cioè i punti di mira, ogni punto dove deve andare una bomba, ma si contano a centinaia, sparsi in tutto il paese, ben protetti, anche geograficamente lontani, cioè vuol dire magari che uno se ne deve volare un'ora e fischia sopra l'Iran per andarlo a raggiungere. E allora, chiarissimo Andrea, stai tratteggiando un quadro che è molto più complesso di quello che le dichiarazioni politiche lasciano intendere, ma voglio proprio tornare alle dichiarazioni politiche, perché a questo punto è chiaro che molto spesso si mettono in scena scenari, appunto, si tratteggiano scenari possibili per smuovere leve politiche. Israele che cosa sta mandando a dire e a chi? La professoressa Emiliani giustamente diceva, beh, ricordiamoci le elezioni americane. Questo è il punto anche. Intanto tu mantieni una pressione spaventosa sull'Iran, perché l'Iran teme, ovviamente, cioè preoccupano, pensate un po' come vivono in Iran pensando che giorno dopo giorno c'è questo babau dell'attacco, arriva, non arriva, è una forma di pressione molto utile anche questa, fra l'altro, poi fa pressione su Washington, ovviamente. Fra l'altro esiste anche una pressione commerciale, no? Perché l'Iran è in qualche modo è sottoposto a embargo e quindi è chiaro che una popolazione magari, no, che soffre già di certe cose, gli vai anche con i titoli dei giornali a ricordare che c'è la mannaia, no? Che potrebbe cadere dal cielo, insomma questo non è un argomento di poco conto. Allora, il traffico, poi l'ultima domanda per Andrea Nativi e su questa possibile guerra all'Iran. E si diceva che ogni volta che si paventano scenari di guerra bellici di questo tipo, poi chiaramente tutta la politica si muove, ma non pensiate che all'interno del governo a Tel Aviv, come dire, vi sia un corpo monolitico, anzi, quest'ultima opzione fa schierare poi anche la politica israeliana, non vi sono soltanto i falchi, ma vi sono anche quelli che protestano contro un potenziale intervento israeliano. L'ultima domanda per Andrea Nativi è poco meno che giocosa a questo punto, perché Una volta che si sarà risolta questa, anche mediatica, no? questa messa in scena un po' mediatica, se vogliamo, di questo annuncio del potenziale attacco, tra quanti mesi verrà fuori? Nel senso, quando è utile politicamente, a parte le elezioni americane, ritirare fuori questo formidabile grimaldello del potenziale attacco all'Iran? Bisogna alimentarlo e renderlo credibile continuamente, rinnovarlo ogni X mesi, come hanno fatto peraltro Israele, bravissimo, perché Iraq gliel'ha tolto dalle scatole Bush, prima una volta e la seconda nel 2003, vi ricordate, no? Sì, ci sono le armi di qui e di là, Israele sì. Continuava a dirlo tutti i giorni e poi ha trovato qualcuno che gli ha tolto le castagne dal fuoco. Tra l'altro la priorità di Israele reale a breve non è tanto più Iran, quanto vedere quello che succede in Egitto, Siria, Giordania e compagnia. Si sposta il loro interesse dalle operazioni a lunghissimo raggio a quelle a più breve raggio, uno scenario tipo guerra del 73. Altra cosa, l'Iran non può combattere contro Israele colpo su colpo, però gli scatena Hezbollah in Libano, però gli combina qualcosa con Hamas, cioè ognuno combatte come può. Gli iraniani hanno questo, più che le armi militari da fantascienza per tutti Israele, hanno un po' anche di queste, ma non è la battaglia scudo-missile iraniano contro sì. quello israeliano. L'ultima cosa è che se vuoi possiamo ipotizzare uno scenarietto, e allora ti direi che l'ipotesi di fare una rasoiata sulle capacità nucleari iraniane e militari potrebbe essere fatta dagli Stati Uniti, non da Israele, e non da Israele e Stati Uniti insieme per ovvi motivi politici, tipo la Desert Fox nel 98, cioè 3 o 4 giorni molto intensi e senza preavviso e senza build up. Se proprio si dovesse fare, questa, a mio avviso, sarebbe lo scenario più probabile. Grazie. Allora, Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa, buona giornata, buon lavoro. Grazie, come sempre, per il tuo commento puntuale. Arrivederci. E noi ci spostiamo, torniamo sulle sponde del Mediterraneo e ve l'avevo detto ieri, torniamo in Tunisia. Les Tunisiennes sont appelées à manifester ce lundi à Tunis pour exiger le retrait d'un projet d'article de la Constitution. L'article 27 stipule que l'État assure la protection des droits de la femme, de ses acquis, sous le principe donc de complémentarité avec l'homme. E quella che sentite è tutta la rabbia e la concitazione delle anime più liberali della Tunisia. La Tunisia è proprio quel paese che ha dato l'avvio alla primavera araba e che vede invece un possibile autunno, ci si consenta il termine. Perché? Perché c'è questa proposta di alcuni deputati di Ennahda, partito islamista che ha vinto le recenti elezioni, che vuole riscrivere questo articolo della Costituzione e parla di complementarietà dei sessi e non più di uguaglianza dei sessi. Disquisizione linguistica, si potrebbe dire, no, niente affatto, perché se si va a riscrivere la Costituzione si va a rifondare la norma principe, quella che poi a cascata va su tutto il sistema giuridico di un paese, da ciò la preoccupazione di tante dei partiti, delle anime di sinistra e liberali e più laiche della Tunisia. Ieri sera c'è stata una gigantesca manifestazione a Tunisi, ma non solo, anche in altri centri tunisini, c'erano politici, c'erano cittadini. Noi abbiamo chiesto a Salma Mabrouk, che è una deputata di Etta Katol, che è un partito di sinistra, un partito laico, appunto un bilancio di questa manifestazione. C'était très bien dans le sens que il y avait beaucoup beaucoup de monde. La manifestazione è andata molto bene, c'era tanta gente, circa 10.000 persone di ogni età, uomini e donne di estrazione diversa, c'erano deputati, partiti politici. È stata una bella manifestazione pacifica che si è svolta molto bene. Quello che ci aspettiamo è che i deputati che hanno proposto questo articolo assai controverso e pericoloso per i diritti delle donne presentino la revisione della loro proposta, perché nel momento in cui si parla dei diritti delle donne all'Assemblea nazionale si abbia una proposta sulla quale tutti sono d'accordo e che non divida la popolazione tunisina.

WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E abbiamo parlato di Siria, Iraq e Iran, questo triangolo medio orientale così caldo. Notizia battuta pochi secondi fa: un giornalista della TV iraniana in lingua araba Al-Alam è stato rapito dai ribelli siriani a Homs, lo ha riferito il sito dell'emittente. Il reporter Ahmad Satouf è stato rapito, virgolette, da gruppi terroristici armati. E vabbè, questo lo sappiamo che ormai è la retorica non solo di Al-Assad, ma anche dell'alleato Iran. E poi andiamo in Francia, perché vi ricorderete, nelle scorse puntate abbiamo parlato della annosa questione Rom. Sono proseguiti in questi giorni gli sgomberi. In particolare, una cinquantina di Rom sono stati espulsi nella prima mattinata di oggi da un palazzo che occupavano illegalmente a Lione, in Francia, appunto, centro-est del paese. Secondo fonti della prefettura, almeno 25 erano bambini. La polizia è intervenuta, anche se i Rom avevano ricevuto il sostegno degli abitanti del quartiere e di diverse associazioni umanitarie. Il collettivo Rom ha deciso di organizzare una marcia quest'oggi in favore delle famiglie sgomberate. I Rom espulsi stanno occupando da stamane una piazza del quartiere. Vedremo come andrà a finire questa annosa questione francese. E poi è mistero, siamo sempre in Libano, perché un video diffuso da Al-Arabiya, la TV saudita, è mistero su questo presunto miliziano di Hezbollah che sarebbe stato catturato vicino a Damasco, mentre il Partito di Dio smentisce categoricamente questa cattura. E poi una storia che ricorda, chiaramente una storia che raccontammo, omologa, proprio l'anno scorso. Forse vi ricordate, i più attenti si ricorderanno di Anna Zare, che fece un lunghissimo sciopero della fame a Nuova Delhi per protestare contro il grande cancro che affligge, secondo lui e altri attivisti, l'India di oggi, cioè la corruzione. Ebbene, c'è una nuova figura, un nuovo guru anticorruzione, si chiama Baba Radmev, che ha annunciato quest'oggi una sospensione dello sciopero della fame dopo 5 giorni, anche se dice, e siamo sempre a Nuova Delhi, continuerà la battaglia contro il denaro sporco e i corrotti. E allora non mi resta che ringraziare Mire Locchetti, Massimo Brugnone che hanno scritto con me questa puntata, Roberto Scaltriti che le ha dato la musica e il ritmo giusto anche quest'oggi, voi gentili ascoltatori per essere stati all'ascolto con noi anche questa volta. L'appuntamento è domani alle 6.30 per la replica e poi sempre domani 13.15 con la puntata ferragostana di Nessun Luogo Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.